Random nine. Ed eccoci qua con il nostro Random 9 su Radio Wombat, Wombat Radio. C'è anche Andrea. No, lo so. Lo so, si è perso un po', come dire, il filo, sì. Il feeling. No. Che abbiamo saltato. Sì, una settimana. La settimana scorsa, che magari sì. Abbiamo perso un po' di feeling. Sì, ma perché devo... Questo microfono è nuovo. Sì. Sì, secondo me quello lo portavo io. Bene, dai, almeno serve. E, che dire, io sono contento, sembrerebbe un momento abbastanza buono, perché insomma, gli ultimi mesi sono stati un po' complicati, insomma, affetti familiari un po' di tutte e due, vero? Insomma, un pochino complicati, però non parliamo delle cose nostre. E quindi, insomma, soprattutto io sono stato un po' latitante. Ora speriamo, si dice già l'altra volta. Si sì, fatti metterlo di io mi sto toccando. Bravo, mi sembra uomo in questo caso. Che vi dico, buonasera a tutti e a tutte, come potete sentire, spero non si senta troppo, ma ho preso questa bella rabberciata di freddo. No, stamani però il telefono, il messaggio era messo peggio. Sì, perché la mattina è molto peggio. Sì, poi sì. Si fluidifica. Sì, in effetti è un po'. Si fluidifica con l'andare della giornata. Una voce un po' da zombie, eh? Va bene, dai. E poi volevo dire anche comunque, ragazzi, se la Wombat è la Wombat, e vi volevo ricordare che sui 13:59 in AM... ci trovate, e se avete una vecchia radio, perché no, ripulitela, risistematela, da una scartatina alle valvole e sintonizzatela sui 13:59. Anche sull'autoradio, insomma, c'è qualcuno ci sta ascoltando via autoradio. Via autoradio? Sì. Via Bluetooth con il telefono, sì, certo. Dal sito della Wombats. Certo. Mettere un pezzo? Sì, dai, mettiamo un pezzo. Vedere qualcos'altro? No, oggi voglio sentire roba, vai. Allora, primo pezzo, Queen of the Stone Age, il pezzo è Little Sister, dall'album Lullabies to Paralyze, e anno d'uscita 2005. I'm not alone. saggio a tutti. La canzone è finita. No, la farei così perché per riprovare le corde vocali. Sì, sì, per non sforzarle troppo parlerò con questa voce. Secondo me cambia subito sintonia. Davvero, si mette a... d'accordo. Va bene. Comunque, la chitarra, Josh Homme. Ok. Sì. Allora, Troy Van Leeuwen e poi Michael Schumann al basso, la tastiera e i cori, Dan Fertitta alle tastiere e alla chitarra e alla percussione e John Theodore, percussioni e batteria e poi... Ok, gruppone. Sì, sì, sì, sì. Vabbè. Poi c'è stato anche Nicco Rivieri al basso. Ora ci fai tutta la storia? No, non lo farò, non vi sedierò con questo. Hanno fatto anche un album con Dave Grohl, Song of the Deft, so se ve lo ricordate. Insomma, un po' di cose. Poi abbiamo formazione durante gli anni, insomma, quindi... Buono. Bene, io invece volevo passare ai Primal Scream, band inglese, insomma, ormai da diversi anni. Insomma, che dire, il genere non saprei, perché fanno diverse, hanno sempre sperimentato, potrebbero essere rock, potrebbero essere, non so. Però insomma, questo brano mi piace particolarmente perché è anche ballabile, insomma, e quindi Moving Hop. Ce lo vogliamo. Sì, oddio, a parte la schiena, ma insomma. È tornato tutto rotto, ragazzi. Però sono tornato. Va bene, via. Godiamo delle piccole cose. Buona, vai, Prima tipo Scream. Moving on up dei Prima Scream. I can see. E questi erano i Primal Scream, un brano a me bello, il video molto, come posso dire, soul, anche sono queste coriste, insomma, del proprio tipo Motown, ecco, il genere. Però insomma, ripeto, loro hanno fatto tante cose anche sperimentali, sempre sul rock, sull'onda rock, però è molto interessante, una band molto interessante, almeno secondo me. No, no, anche secondo me, hai fatto proprio bene a proporcela, a farcela sentire. Mi è piaciuto, mi sono piaciuti. Io volevo ricordare ai nostri wombate, alle nostre wombate all'ascolto, che se vogliono possono scriverci sul pad, digitando sul vostro partner di ricerca diretta a wombat.vado.li. Vi si aprirà il nostro appunto simpaticissimo pad e niente, potete comunicare, scriverci quello che vi pare. Adesso io non so come sono col volume, ma sembrerebbe tutto a posto, perché sto parlando un po' piano, mi sa, ma insomma. Però vorrei farvi ascoltare un pezzo dell'Eagles of Death Metal, che tra l'altro appunto hanno come filo conduttore con il brano di prima dei Wind of the Stone Age, il Josh Homme, che qui in verse di batterista nell'Eagles of Death Metal. E una curiosità un po', come dire, macabra e comunque, però insomma si va, diciamo che omaggiamo con questo brano le vittime dell'attentato del 13 novembre 2015 a Parigi, Bataclan, dove appunto c'è stato questo attentato dimenticato poi dall'ISIS durante proprio un concerto di Eagles of Death Metal. Aspetta un attimo solo che ora non riesce a tornare al nostro, eccolo qui. Eagles of Death Metal con Don't Speak. That's wrong. E Questi erano gli Eagles of Death Metal. Ah, sì, sì. Erano proprio appunto quelli che suonavano al Bataclan quando è successo. Sì, poi loro ce la fecero a fuggire da, dalla porta sul retro, diciamo, backdoors. Backdoors. Invece penso che della loro crew sia morto quello che stava al merchandising, se non sbaglio. E, poi insomma, quasi 90 persone. Sì, sì, una strage. Brutta, sì. Allora, io invece volevo passare qui in Italia, precisamente a Firenze, e dove appunto ogni tanto devo metterli i miei amici, insomma, ormai di vecchia data, ormai insomma sono passati più di 10 anni, 15 anni, e anche perché appunto poi tra l'altro appunto a giorni purtroppo si ricorda appunto la scomparsa di Vincenzo, insomma siamo la prossima settimana, ecco, quindi insomma per ricordarlo, per in qualche modo insomma io sicuramente da parte mia insomma ce l'ho nel cuore, che è stata una grande persona, e volevo passare un brano degli Spettri dal secondo album fatto appunto dopo 40 anni dal primo, e questa è La Nemica dei Ricordi, è proprio il titolo anche dell'album, insomma il sottotitolo, perché c'è tutto un titolo molto più lungo, e quindi vi volevo fare ascoltare rispetto la voce di Ugo e tutta la banda dietro a lui. Thank you. paura nei miei occhi. Come un morso nella carne. Se ti manca prima tocchi. Spettri, la nemica dei ricordi. Io vi consiglio, se lo trovate ancora, insomma, su Amazon, so che Amazon, però tanto tutti poi dicono, e poi comprano tutti da Amazon. No, compro un cazzo su Amazon, ancora negozi sono rimasto. No, io sì, io ho avuto voi del mio negozio preferito, però non voglio fare pubblicità, tanto no, non la fare, però no. Questo brano è bello, poi mi piace, questo mi è piaciuto perché c'ha questo prog però cupo, molto... certo, sì sì, a parte avevo messo dei brani del primo, il primo ancora più cupo, perché il 72 lo realizzarono, infatti non uscì all'epoca perché il discografico disse no, questo bello musicalmente però troppo cupo, e poi i testi erano ancora più pesi, sì, che molto introspettivi. Vabbè, e questi appunto erano gli Spettri, che poi dopo sono diventati Dennis and the Jets. Io invece rimango sul vado sul commerciale, perché questo pezzo mi piace tantissimo, si chiama Summertime Blues. Ora non mi ricordo chi l'ha scritto. Ora chi l'ha scritto non me lo ricordo. Questa versione è interpretato da Brian Setzer, chitarrista degli Stray Cats, Rockabilly, New Rockabilly, insomma, che si ricollega un po' ai Dennis and the Jets. Noi si fa le cose, sembra si faccia le cose a caso, ma si fanno a caso. Ma c'è un filo conduttore in qualche modo che poi alla fine unisce tutto. Summertime Blues fece Eddie Cochran, però non so se è sua, se è un classico. E poi anche gli Who fecero una bellissima versione. Ah, cioè, davvero, non so me lo ricordavo. Una bella versione live da Live in Leeds, veramente bella, proprio potente. Però sono curioso perché non l'ho sentita nella versione di Brian Setzer, allora, e quindi sono curioso. Qui sull'internet, se noi scriviamo Summertime Blues, ci viene brano di Alan Jackson. Sì. Dall'album Who I Am. Sì, di qualche anno fa, insomma, di qualche decennio fa. Direi di sì. Sì, sì. Vabbè, poi magari diciamo dopo se lo trovo. Vabbè, facciamoci, ascoltiamoci il pezzo, poi vai. Se di qualcosa o meno. O no. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, the mama and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, all the boss I was sick. Now you can't use a car, of course you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Bella, è molto filologica come versione, sì. Che poi appunto abbiamo riguardato, io avevo detto di Cochran, però poi c'era apparso invece l'altro nome, no, c'era apparso l'altro nome, quindi io pensavo fosse magari un intervento, invece è buon, è di Cochran che l'aveva realizzata appunto per primo. Nel 58, 1958. Beh, meravigliosa versione di Cochran, però appunto è di Brian Setz, che è molto... fedele nelle sue interpretazioni, l'ha resa bella anche questa. È bella, ma probabilmente sarà un po' più piena e registrata meglio rispetto a... Sicuramente, sì, sì. La prima versione era scarnissima, forse la bellezza era anche quella, insomma. Sì, poi magari appunto, venendo dal blues... Sì, sì, sì. Insomma, erano questi bianchi che si rifacevano comunque a delle cose, insomma, dei grandi bluesmen neri però poi reinterpretavano nella loro maniera, però insomma, il dato è che la scritta è di Cochran. Io faccio un salto negli anni, questo si parlava di cose un po' più commerciali, questa è commerciale ma non per questo brutta, anzi secondo me almeno a mio avviso è un bellissimo pezzo. Sta parlando di Duran Duran. Che si era nominato anche, mi ricordo, l'altra volta. Sì, sì, si nominarono perché io ti avevo detto, io secondo me me riporto Duran Duran, poi me li sono dimenticati. Invece lo portai io. Skin Trade nel periodo un po' post, diciamo, del grande successo. Qui infatti mi pare che erano rimasti in tre, poi visto si sono rimessi insieme, insomma, ne hanno fatte di cotte e di crude. E questa Skin Trade è un brano, insomma, notevole, veramente bello. Quindi io volevo farle ascoltare. Andiamo via. Bye. Allora, questo era Duran Duran, mentre noi stavamo parlando di nemmeno di Fiorentina, di cose allatere, come si suol dire, un po' inutili, eh? inutili, qualcuna diciamo inutile, un po' di gossip. Sì, sì, vabbè, quelli lasciamo fare. Riguarda noi. Noi e il piano organizzativo della città riguardo a non so, lo stadio e quant'altro, riguardi la Fiorentina più o meno. Sparate di questo. Sì, poi appunto è un po' ingiustificato, insomma, quello che è ingiustificabile, però come tante cose in Italia, specialmente in questo periodo, dal ponte, che quello lo vuol fare in tutti i modi, ma è già stoppato, hanno cominciato a fare il ponte sullo stretto, sì. Ma sì, buona. Poi sempre mettere l'ingegner cane, se lo ricordo. Sì, sì. Sì, in effetti è quella cosa lì, se tu gli metti il cappellino. Sì, sì, Salvini è lui. Sì, però lì. Insomma, non è che Salvini, insomma, non è che, no, diciamo, questa amministrazione, tornando qui a noi, a cose a noi più vicine, insomma, dai, questa questione dello stadio potrebbe essere gestita in un altro modo, come tante altre, prima poi non scendiamo nei dettagli. Sì, sì, vabbè, no, però, insomma, però possiamo dirlo. Insomma, no? Ah, voglio, si può partecipare. Fa veramente re. Vabbè, vabbè, dai. Noi, guarda, ho messo sul piatto così, giusto per spaziare un attimo. Limp Bizkit con Method Man, pezzo, non mi ricordo di che anno. Comunque, il pezzo si chiama Together Now. Cavoli. DJ, who could be the boss? Look up to the cross, stranded in the land of the lost. Standing up, I'm sideways. I'm blazing up the path, running on the highways of wrath. Choked up by the smoke and the charcoal. Lava stamps and brands me like a barcode. I'm dashing all the media strikes. I keep the media dikes. It's reinforcement for the fight. And that alone will keep John Gotti on the phone. I'm tangled in the zone. I got the bees on the track. The cow. Let me hear your pigeons run your mouth now. Shut the fuck up. I'm plugging in them social skills to keep my total bills over a million. The last time I checked it, thank God I'm blessed with the mind that'll wreck it. Wait until the second round and knock 'em out. They call me Big John Studd, my middle name Mud. Dirty water flow, too much for you thug. That can't stand the flood. What up, Doc? Hold big gun like Elmer Fudd, the show shot. Miss a map, I'm unplugged. Learn, temperature's too hot, the sun block. Burn, playing with minds to get you state time. Locked behind 12 bars from a great mind. Killer bees in the club with his ladybug. Brought his sword to the dance floor to cut a rug. Love is love all day till they throw slug. And take another life in cold blood. Can't feel me till it's your blood. Murder race tremendous, crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us. They know not what they do. All praises due. I'm big like EZ and Big Bamboo. What's that? I didn't hear you. Shut the fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the gavin now. Shut the fuck up. Just what? Shut the fuck up. Just shut the fuck up. Fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the cabin now. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Strong, dead calm, dead right on. Dead weight, they dead wrong. Let's get it on. 12 rounds of throwdown. Who hold crown? Protect land with 4 pounds. Limp Bizkit. Get around like merry-go. Bust a scenario. Coming through your stereo. Why risk it? Lifestyles of the prolific and gifted. Eight essential vitamins and minerals. Delicious. Word on the street is they bit my thesis. Knocked out they front teeth is trying to taste mine. Acting like they heard through the grapevine. Dope feeding for the baseline. 2 for 5 rounds. Pharmaceuticals. Hardest nails to the cuticle. Where'd you find that monster? She beautiful. Wu-Tang and Limp Bizkit. Roll on the set. Kick a hole in the speaker. Pull a plug and then jack. Mic check. So what's it all about? And where we gonna run? Maybe we can meet up on the sun. Discretion is advised for the blood of virgin eyes. We're limping on the track with the method. So get the sun block. You're getting one shot. Until you dissolve, I revolve around everything you got. From out of nowhere, prepare. You'll be blinded by the glare. I told you not to stare. Now you're turned into stone. Without a microphone. But don't you forget you're in the zone. Shut the fuck up and take that shit back, cause all your shit's whack. Deal, deal with deal, deal. When it's weighed out like that, burning up your brain like a piston. So all those who didn't listen never even knew what they were missing, and never even knew that the sky was falling down. Wu-Tang Clan for the crown. What's that? I didn't hear you. Shut the fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the cabin now. Shut the fuck up. What? Shut the fuck up. Just shut the fuck up. What's that? I didn't hear you. Shut the fuck up. Come on a little louder. Shut the fuck up. Everybody in the cabin now. Shut the fuck up. Whoa. Shut the fuck up. day, every day, S-I-N-Y, 10304, Wu-Tang, Killer Bees, and the Limp, B-I-Z-K-I-T's. Y'all know the time, y'all know the rhyme, it ain't easy being greasy, in a world full of cleanliness and, you know, all that other madness, we gone. Erano i Limp Bizkit con Method Man. Questo loro li conosco poco, però tu lo sai che io sono un po'. Ma senti, si sono riuniti adesso. Lo sai, non ho spulciato che hanno fatto. Via, ora lo farò. Prometto di farlo. Bene, bene. Grazie, grazie. Allora, noi rimanendo su. Sui classi. Sì, no, su, sì, è un brano tra l'altro è, appunto della fine degli anni 50, insomma. Sto parlando di Jacques Brel, belga, insomma, anche se tutti pensano che sia francese, ma appunto è diventato famoso in Francia, poi nel resto del mondo, però era un artista belga che poi è stato comunque ispiratore anche per tanti altri insomma, soggetti, altri artisti. Per fare dei nomi, forse l'ho già detto, David Bowie, Scott Walker, Mark Almond, i quali hanno fatto tutto vari tributi proprio dedicati a Jacques Brel. Per esempio, David Bowie fece Amsterdam nella versione in inglese, Mark Almond rifece anche lui Amsterdam e altri brani, e Scott Walker proprio un album intero, proprio Scott Walker sing Jacques Brel. Questo brano è La Colombe, è un brano dichiaratamente antimilitarista, e è un brano insomma breve, però insomma molto, molto bello, Jacques Brel. Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi quoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement. Pourquoi l'enfant mort-né, que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Jacques Brel, La Colomba, appunto questo brano è molto intenso, questi fiati quasi medievali, anche mi fa venire in mente qualcosa del genere, forse sbaglio, vabbè, comunque. No, mi sono venuto santo a ascoltare che ti ha detto, che ti fa venire in mente? Delle atmosfere medievali. C'è anche questa fanfara. Sì. Però appunto notevole, uno degli artisti, dei cantanti, degli autori che io veramente amo alla follia, proprio perché... Però si potrebbe fare un giorno e ci si traduce un po'. Sì, io c'ho tutto il libro dei testi tradotti in italiano di Jacques Brel. Sì. Cioè, originale con testa affronte. Preciso. Penso di essere l'unico. No, non credo, perché insomma comunque in Italia ha avuto il suo perché. Oltretutto poi comunque è stato ispiratore anche di tanti cantatori genovesi. Appunto De André, insomma. Poi insomma ci sono stati anche Nanni Svampa ha fatto delle cose sue. Non lo conosco. Lo Svampa. Nanni Svampa era uno dei Goofy, questo gruppo. Questo è quello che il mio cervello ha fatto. I Goofy l'ho passato anche qualche volta. Non sei attento. Ora appunto ormai siamo già a 50 puntate e passa di Random Night. Credo 53, ma non sono. Vabbè, sicuro. Dai, noi stiamo veleggiando verso la centesima puntata. Davvero. Poi vediamo, sì. Che si fa la centesima, sì. Una festa. Sì, una bella, sì, l'avevi anche accennato una volta. Si invita tutti e sì. Se vogliono venire, e si fa una puntata speciale. Sì, e noi si esce dalla stanza. Vabbè, potrebbe essere anche interessante. Sì, infatti, vedere che succede. Come si gestiscono. Infatti. Radio. Vabbè. I nostri amici ascoltatori. Affini. Io invece, guarda, volevo andare in Inghilterra con il prossimo brano di un gruppo appunto inglese che è nato nel 2001, che fa musica elettronica, e si chiamano Audio Bullies. Il pezzo in questione è We Don't Care, e, insomma, decisamente lontano come approccio e come sonorità da Jacques Brel, ma... Beh, è Random Night. Sì, è Random Night, e poi insomma è anche divertente sentire come si è evoluta in certi casi la musica. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you, I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. da fa. Watch it shake. Come al solito noi ci si incanta a ragionare, però vabbè, d'altra parte è così. Poi noi ci vediamo e solo il mercoledì, perché Andrea fa il prezioso. Ma nemmeno, tra l'altro nemmeno tutti i mercoledì, questa oretta e mezzo. E poi... Vabbè, colpa mia? No, colpa di nessuno, colpa del destino. Ecco, bravo. Vabbè, dai, appunto, sì, dicevo anche fuori onda, insomma, questo brano che mi ricordava un po' di questo, va bene, comunque, non si vuole dare. Comunque stasera se volete cenare in un posto... Ecco, dillo. Non so cosa ci sia di programmazione, ma in via Retina di fronte alla caserma c'è il Melocrano, associazione culturale, e ragazzi, ci si sta bene, un posto piacevole, carino, in cui si cena in compagnia. A prezzi veramente irrisori, davvero, sì. Quindi bisogna andare anche per sostenere comunque sosteniamoli l'esperienza. Sì, facciamo la tessera e sì. A volte fanno anche dolce, quasi sempre c'è anche il dolcino. Cavolo, un piatto unico e dolcino. Quindi te consigli perché dalla tua alta. No, io lo consiglio perché è un posto dove si sta bene, semplicemente. Vabbè. È un angolino particolare, insomma, sì, in mezzo al verde. Sì, sì, sì. No, bisogna andare, eppure bisogna andare. Bene, invece te, a parte tutto ci porti. Allora, musicalmente sempre in Inghilterra, e come sempre con una band ormai vetusta, ormai rimasta a... Perché l'Inghilterra domina, come diceva il V per Vendetta, non so se l'avevi letto. La perfida Albione. Vabbè, questo è un brano tardo, molto tardo, anche se ormai sono passati più di 30 anni anche per questo brano. È tardo della loro produzione, sto parlando degli Who, che appunto ci ricolleghiamo un po' a quando si parlava di Summertime Blues, nella loro versione strepitosa, Live in Leeds. E questa è Eminem Front, mano, brano, insomma, che boh, a me mi è sempre colpito di quella, l'ultima produzione, non proprio felice. Poi dopo poi sono ritornati a distanza di anni, hanno fatto altri due o tre album. Ora sembrerebbe che la storia sia finita, perché insomma comunque Roger Daltrey continua a fare delle cose da solo, e Pete Townshend dice che se ci sarà l'ultima serie di concerti lo farà solo per i soldi, come se quegli altri, vabbè, comunque lasciamo perdere. Vabbè, dai, si deve garantire una vecchiaia anche. Sì, ormai hanno 80 anni, devono garantire tutta la genia che viene dopo. Ah, ce lo fanno per posteri. Sì, per posteri, sì. Vabbè, dai, The Who. Dressed to kill. The Who. E questi erano gli Who. Chi? Gli Who. Chi? Chi? Gli Chi. Gli Chi. Gli Who. Gli Chi sembra cinese. Sì, sì. Sono in giapponese. Gli Chi. Chi. Con Eminence Front. Sì, sì. Bella. E invece... Alla voce Pete Townshend, eh? Davvero, era lui? Sì, sì, era Pete Townshend. Ma anche basso? No, no, lui è la chitarra, sì, sì. È quello fa così... Sì, sì. Quello che ha reso famoso. Come faceva? Però alla radio ancora non si vede. Non si può. Poi, ve lo immaginate. L'ho fatto quasi uguale. Sì, io l'avrei visto. Se era dall'altra parte. Tutto lo avresti visto meglio. Sì, sì. Perché è uguale, soltanto sì, invece uguale. Farlo sì, sì, ma sentiamo quello spostamento d'aria. Sì. Vabbò. Si parla dei classici che non li cavolo. Mettiamo, e poi si sono messi veramente poco, sì. Guarda, ma aspettavo ci fosse un abuso di questo gruppo, invece no, l'abbiamo messo, dai, forse proprio per non abusare, sì, anche se non sì, perché sono quelle perle, quei gruppi sono delle perle, e quindi è meglio non abusare, è meglio tenerle nello scrigno e farle uscire fuori ogni tanto. Sì, io non aggiungo altro. Però si sta parlando. Si dice chi sono o si dice dopo? No, perché scusate, no, ma io volevo dire una cosa. Ma basta anche la parola, basta anche. Cioè, come il confetto Falqui, eh? Sì, basta la parola, sono. E uno va verso. Perché non ci scrive in un perché suo, allora no, almeno sui telefonino non si entra. Già stato detto. Non si entra nel pad. No, non si entra nel pad. E quindi la quarta persona dell'altra volta può mettere. Sì. Ciao Random 9, forse si è scoperto che l'ha scritto, forse. Va bene, comunque, il pezzo in questione è... c'è la quarta perché eravamo tre già, eravamo tre qua, quindi... No, ma quella volta che eravate tutti di là, io ero di qua, e voi eravate tutti di là. Ah, sì, ma sì, io uno ero io. Uno era anche se non ero qui. Una delle teorie che sono qui che stava fondamentale, mi è piaciuto un mondo. Cosa vuol dire? Vuoi rimancare? No, potresti venire qui, sì. Però non parlare di scrivere, se no mi fai una buca, sai, tipo i suggeritori da teatro, però che poi non si sa dove siamo, tra l'altro. No, direi proprio di no, io non lo so, come mi ci portano io. Anche a me le prime volte mi mettevi la benda per portarmi, capito? Vabbè, dai. Super segreti. Sì. Comunque vi ricordo che se vi piace ascoltare anche le nostre cazzate sui 13.59 in AM, voi ci sentite. Quindi non potete, in qualche modo dovete farlo. Certo, non avete scuse. Comunque, pezzo Teenage Lobotomy. E il gruppo vi si dice dopo, via. Now I am a real thingy, guess I'll have to Wow. Essere alzati il volume, sì, anche noi ci vogliamo divertire un po', no? E sono rimasto, no, sarei senza parole perché hai detto una frase mai sentita. Sì, mi capita spesso di dire cose un po', non dire non banali, però insomma le cose che si dice, no? Perché qui non è banale, per quello che si diceva, insomma, questa band grandiosa con dei personaggi uno proprio diverso dall'altro, sia come impostazione ideologica, sì. Però grande, cioè, la vuoi ripetere? Allora, Ramones, come, allora, Ramones appunto gruppo statunitense che racchiudeva al suo interno persone, ragazzi all'epoca che poi sono cresciuti, uh-huh. E sono i fratelli Ramones praticamente, uh-huh. Perché tutti si chiamarono, si cambiarono il cognome in Ramones. Sì, sì, Ramone, Fil Ramone. Ramona, e avevano anche idee politiche e idee del mondo non proprio similari. Similari. E comunque il loro fare musica li ha uniti e insomma, al di là delle idee c'è anche, presumo, il sentimento che unisce le persone, al di là di quello che è il mondo delle idee. Perché in fondo siamo esseri umani e quindi il sentire, il sentimento ci unisce, l'emotività. Ecco, bravo, era quello che volevo sentirti. Grazie. Non è proprio quello che ho detto prima. No, infatti. No, l'hai detto meglio, meno, vabbè. No, però volevo fare anche un piccolo appunto solito da... anche perché... Dimmi, ma probabilmente ora mi è presa, sì. No, volevo solamente concludere dicendo che al di là delle barricate, cioè, c'è un sacco di guerre a giro, no? Però poi alla fine... la sofferenza e i morti colpiscono da una parte e dall'altra. E quindi, insomma, appunto, al di là delle idee che ognuno può avere o che si trova da una parte o dall'altra del fronte, giusto anche scegliere da che parte stare del fronte, non ti dico che sia tutta la stessa roba, però l'essere umano è comunque umano, sia da una parte e dall'altra. Fine. E ora come fa? No, io volevo andare proprio sui banali, su delle cose più così. Volevo fare un'osservazione che in qualche modo in qualche modo c'entra sempre i Beatles, perché all'inizio della loro carriera Paul McCartney si faceva chiamare Paul Ramone. E quindi, boh. Ma dai, quindi te mi vuoi dire che quella pettinatura alla Ramones con la zazzerina e il capello liscio, che ne sa, cioè, no, perché anche i Beatles hanno avuto quel tipo di look, no? E hanno iniziato loro, loro Beatling, no, la zazzerina loro veicolata dall'esperienza esistenzialista dalla Germania, quando loro andarono a Amburgo a suonare. Quel taglio fu fatto da Astrid Kirchner, che poi era la compagna di Stuart Sutcliffe, il primo bassista, che poi è morto appunto ad Amburgo, e li pettinò in quella maniera perché i suoi amici facevano parte di questa combriccola molto esistenzialista, si vestivano questi maglioni neri a collo alto, avevano i capelli in questa maniera con la frangetta, e quindi che ne sa, bisognerebbe... Perché Paul McCartney si faceva chiamare Paul Ramon? Perché mi sa, se non mi ricordo male, si faceva riferimento a un altro artista che a cui gli piaceva, che si chiamava Ramon. Che bello. Scopre sempre un palo, ragazzi, è un'enciclopedia vivente. Piazzate. Sì, però è importante, pensate stare bene. Per dire, non so, George Harrison, mi sembrava si faceva chiamare Carl Harrison, perché Carl era veicolato da Carl Perkins, uno dei suoi idoli, un chitarrista, un artista americano. Sa fare anche noi. Io ora ci penso. Troviamo anche noi un nome? Sì, sì. Cognome? Andrea e cognome. Sì, sì. Ma uguale anch'io? No, qui siamo una donna, ognuno fa come vuole. Non siamo Ramones noi. No. Però vabbè. Si può fare anche... Vediamo. Sì, sì. Poi se ci viene di farlo uguale, si fa uguale. Sì, sì. Vabbè, io aspetto le dici te. Vabbè, no, ci si pensa fuori onda. Dai. Per ora, che pezzo tu vorrei veloce, questo è Kevin Ayers, già bassista di Soft Machine, già passato qui a Round on Nine. Questa è la di Raquel, brano dei primi anni 70, nella sua diciamo attività solista. Uno, anche questo, uno degli artisti che io amo veramente alla follia, perché è veramente un personaggio molto particolare e diciamo sottovalutato, ma comunque per gli amanti della musica rock di genere eccetera è uno, anche lui un, si può dire, seminale. Grande seminale. Ora aspetta, non salzi il volume a palla, fai anche voi ci si ascolta questo pezzo. Sì, seminale. È una ballata, sicché non è tanto agitata. Ma non importa, tutto volume lo stesso. Vai. Bene, questo era appunto il grande Kevin Ayers con la sua Lady Raquel, e noi andiamo avanti perché vogliamo, vediamo se riusciamo a mettere altri pezzi, perché siamo quasi alla fine del nostro Downtown 9. Ok, allora mettiamo questo pezzo e poi l'ultimo pezzo lo metti tu. Sei d'accordo? Sì. Bene, allora uno... Ce n'ho uno solo da mettere. Perfetto, finisci le cartucce. Spari l'ultima e si chiude. Mm-hmm. Io andrò con Territori dei Sepultura. Gruppo che credo aver messo, penso che sia il gruppo che ho passato di più in queste 53 puntate di Rock on Nine. No. E, non lo so, mi sembra, no? Tra sì, sì, Fly, ancora c'è da mettere Cavalera Conspiracy, ma li metterò. Niente, Sepultura, Territori. Vai. Sepoltura. Sì, dal Brasile. Bene, noi avremmo fatto l'ora, sì, mancava un minuto, tanto io passerei questo brano che dura poco, quindi per salutarsi, abbiamo anche iniziato un po' in ritardo. Un po' in ritardo, sì, perché si è presa un po' una discussione e poi insomma, noi ci vediamo qua, quindi bisogna un po'... fare il punto. Sì, fare il punto della situazione. Di noi stessi. Quello ci vorrebbe una vita. Vabbè, no, dai. Va bene, dai, siamo ancora giovani e forti. Eccoci. C'era una poesia, non c'era pausa, mi ricordo. Sì, ecco. Dai, che dire. Quindi, un saluto a tutti. Sì, a tutti e a tutti. E mercoledì prossimo siamo sempre qua su Radio Wombat. Con... sulle 13.59 in... onde medie. Speriamo che ritorni lo streaming su telefonino, eccetera, e perché noi vogliamo deliziare con i nostri pezzi. E nulla, ve lo passavo un classico italiano, beat, anche questa cover inglese, e un ragazzo di strada, questi sono i Corvi, e da parte mia un saluto e buona serata. E anche da parte mia buona serata e un abbraccio a tutti i wombat e le bombate. Ciao ciao. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché di strada e tu ti prendi il gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada. Sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono